Pronto Fabrizio? Salve, salve, sono Fabrizio. E io sono Matteo, come va? Bene, grazie. Benissimo. Senti, allora volevo sapere qualcosa col forno. Sì. Ho imparato questo stratagemma da una signorina austriaca che ha avuto ospiti in casa per alcuni mesi. Sì. E in pratica lei, per rendere più fino l'impasto e in pratica la sfoglia per fare lo strudel, oppure per fare la pasta all'uovo, sì, una volta che era spianata sulla tavola, prendeva il forno, sollevava la sfoglia e faceva funzionare il forno per renderla ancora più sottile. Ho trovato che è uno stratagemma ideale per rendere proprio la sfoglia. Fabrizio, tu sei un cuoco? No, io sono un economista. Sei un economista? Sì. Di la verità, Fabrizio, guarda, giuro che non mi arrabbio, sei un consulente? Attualmente sì. Ecco, lo sapevo. Ma perché si sentono gli uccellini dietro di te però? Perché sto in un campo da golf. Ah, ok. Adoro te e tutti i consulenti. Grazie Fabrizio, buona giornata.